Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ben approdate qui a Effetto Notte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per sentire qual è stata, quali sono state le notizie principali della giornata e anche per ascoltare proprio dai protagonisti di alcune vicende, di alcuni argomenti in primo piano, quali sono i motivi, le ragioni, le supposizioni, le riflessioni su alcuni temi. Naturalmente ritorneremo su questo movimento. Ieri parlavo di Italia in subbuglio, del movimento dei cosiddetti forconi, anche se ieri un rappresentante di questo movimento si è indignato dicendo che non c'entrano niente con i forconi, però si continua a chiamarli forconi dappertutto, quindi insomma bisognerà mettersi d'accordo anche sui termini. Poi naturalmente ritorneremo su Renzi, che è atteso da molti come salvatore della patria da questa disperazione generalizzata, come diceva qualche giorno fa il presidente di Confindustria Squinzi. E poi è stato il giorno anche della lunghissima grande commemorazione di Nelson Mandela in Sudafrica, con oltre 100 capi di Stato che sono andati a ricordarlo. Vi ricordo come sempre all'inizio i fatti principali. Sappiate che ci sono sempre due canali per le vostre opinioni, per i vostri commenti, che sono quello per i messaggi 349-238-6666, questo è il numero per gli sms, oppure c'è sempre la pagina Facebook, potete scrivere in qualsiasi momento Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Partiamo dai titoli. Come vi dicevo, i forconi continuano i blocchi e i presidi, marcia su Roma la prossima settimana se passa la fiducia al governo, e Berlusconi dice l'esecutivo li convochi subito. Poi la commemorazione di Nelson Mandela, lungo addio con oltre 100 leader mondiali, la stretta di mano tra Obama e Castro. Partito Democratico, la prima scossa di Renzi, segreteria riunita alle 7.30, annuncia, parla D'Alema e conferma, io sono fuori dalla politica. All'Italia il piano industriale non prevede alcun licenziamento e risparmi per 128 milioni di euro sul costo del lavoro. Crisi, l'allarme di Save the Children che dice 1 milione di bambini poveri in Italia, il boom al nord. Calcio, Juventus e l'ora della verità in Turchia, in ballo ottavi e un pezzo di futuro. E quindi partiamo dall'atteso discorso che Letta dovrà tenere domani per chiedere la fiducia al governo, discorso che Radio 24 trasmetterà, ve lo ricordo, in diretta domani. Pare che non ci sarà nessuna marcia su Roma per quanto riguarda i cosiddetti forconi, ma la protesta continua ad oltranza. La marcia su Roma resta sempre là sullo sfondo, ma non subito, non in collegamento al voto di fiducia, ma solo quando l'adrenalina sarà ancora più alta. Nel frattempo, da Torino a Foggia, da Milano a Imperia, i forconi vanno avanti con la protesta tra blocchi e serrate più o meno forzate. Si parla di una manifestazione indetta a Montecitorio dal continuamento. Non è assolutamente vero. Davanti alla stazione Ostiense a Roma, Danilo Calvani, uno dei coordinatori del movimento 9 dicembre, annuncia che solo sabato sarà comunicata la data della calata sulla capitale. Sarà sì una manifestazione eclatante, dice, nei numeri, ma nulla a che vedere col voto di fiducia, come per ora era invece rimbalzato dai presidi di Torino, dove è stata bloccata pure la strada verso l'aeroporto, a quelli sulla A4 in Veneto, fino ai binari occupati a tratti ad Albenga o ad Imperia o ancora nel Foggiano. Tra circolazione in tilt e serrate di negozi, frutto di minacce, secondo alcuni, di solidarietà per altri, la protesta è intasa pure Piazzale Loreto a Milano, zona di Napoli e Palermo. Il Viminale convoca un vertice per fare il punto sulla sicurezza, mentre già sotto la Mole, dove in 8 sono stati denunciati, è aumentato il numero degli agenti. E se Forza Nuova annuncia per il 14 una manifestazione per rilanciare il movimento dei forconi, scrivono, uno dei leader, Mariano Ferro, dà appuntamento a quando le adesioni saranno ancora maggiori. Noi vogliamo gli italiani che stanno male, fuori di casa, e vogliamo portarli a Roma. E versione questa no. Nel frattempo la parola d'ordine è andare avanti ad oltranza. Fin quanto naturalmente il governo non si dimetterà, non dovranno neanche avere il tempo di uscire dal Parlamento. Dopo li faremo arrestare. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E ad accendere gli animi è stato in particolare una lettera inviata da Beppe Grillo alle forze di polizia. Basta con le scorte alle auto blu e con i presidi a difesa dei palazzi del potere, unitevi alla protesta dei forconi e abbandonate i politici che hanno portato il paese allo sfascio. È un appello che fa discutere, quello rivolto da Beppe Grillo alle forze dell'ordine. Nelle prossime manifestazioni ordinate ai vostri ragazzi di togliersi il casco e di fraternizzare con i cittadini, scrive il leader del Movimento 5 Stelle, prendendo spunto da quanto successo ieri a Torino, in un messaggio indirizzato ai vertici di polizia, carabinieri carabinieri ed esercito, un invito subito accolto da un coro di critiche da parte delle forze politiche. Gli uomini in divisa sono un presidio di legalità e legalità vuol dire garantire la libertà dei cittadini di manifestare le proprie opinioni senza violare le leggi, ma anche garantire le istituzioni che non si toccano, sottolinea il ministro dell'Interno Alfano. Grillo gioca allo sfascio e invoca il colpo di Stato con parole incendiarie ed eversive, attacca il Partito Democratico, il leader dei 5 Stelle soffia sul fuoco, dice di andare a prendere uno per uno i politici, ma dimentica che anche lui è un politico, commenta infine il leghista Maroni, Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come testimonianza, a proposito di manifestanti, sentiamo Felice Romano, che è un poliziotto in servizio da 32 anni, che è il segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia che rappresenta 30.000 agenti. Al nostro Spezia ha risposto così, a proposito appunto di queste manifestazioni, di quello che ha detto Grillo, riferendosi alla lettera dell'ex comico. Io ringrazio Beppe Grillo per la vicinanza che dimostra con queste frasi, anche se con il modo tutto suo, ai poliziotti. I poliziotti sono abituati ad essere figli di tutte le opposizioni e orfani di tutti i governi, però voglio che sia chiara una cosa a Beppe Grillo: i poliziotti hanno giurato fedeltà alla Repubblica, alle istituzioni e al popolo italiano. Gli uomini che occupano le istituzioni le hanno scelte il popolo italiano. Quando noi difendiamo gli uomini delle istituzioni, difendiamo il popolo, e noi siamo qui a fare questo e lo faremo sempre, nonostante diremo la nostra sulle cose che non vanno. E a questo proposito, appunto di queste proteste che anche oggi hanno bloccato diverse città, quello che vi chiedo, se volete, tra le opinioni che potete esprimere su o i messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Note, è: vi sentite voi rappresentati da questi manifestanti, da questo tipo di protesta? Ieri c'era uno dei referenti di questo movimento, Veneto, che poi dopo citerò, che aveva detto: noi manifestiamo in nome del popolo italiano, il popolo italiano è stufo. Voi vi sentite rappresentati? Adesso andiamo avanti, ci spostiamo in Sudafrica, dove oggi è stato il giorno dell'omaggio a Nelson Mandela, morto giovedì scorso a 95 anni, e ha seguito la lunga commemorazione Lorenzo Simoncelli, che era lì. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera Gianni. Lorenzo, quali sono stati i tratti salienti? Abbiamo visto naturalmente il discorso di Obama, poi la stretta di mano con Castro, Cuba che ha detto speriamo che finisca l'aggressione americana, c'erano poi i grandi del mondo, ma ci sono stati anche dei momenti particolari che forse sono non conosciuti da tutti. Sì, assolutamente, diciamo che c'era una grandissima attesa per questa prima commemorazione ufficiale, per una serie di eventi che si saranno per tutta la settimana fino a domenica, in cui ci sarà il funerale di Stato a Cuno, il villaggio natale di Nelson Mandela. Diciamo che a parte appunto la pioggia, che di certo non ha aiutato tutta la logistica dell'evento, facendo sì che le attese di 100.000 persone allo stadio in realtà alla fine si sono ridotte a circa 40-50.000, quello che ha davvero colpito è stato che al momento in cui il presidente sudafricano Jacob Zuma, rappresentante dell'ANC, l'African National Congress, lo stesso partito di Nelson Mandela, ha preso la parola per dare il tributo pubblico all'ex presidente sudafricano, si sono alzati veramente migliaia e migliaia di fischi da parte appunto del tribune. Di fischi. Qualcosa che era completamente inatteso, anche perché fra qualche mese ci saranno appunto delle elezioni importantissime qui in Sudafrica, e che lasciano un grandissimo punto di domanda su quella che sarà la nuova fase di questo paese e soprattutto la nuova fase del post Mandela. Quindi, insomma, grande commozione, acclamazione, eccetera, però anche momenti di protesta, si può dire, Lorenzo? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, naturalmente a Johannesburg, allo stadio, c'era un cordone di sicurezza imponente per appunto gli oltre 90 e passa capi di Stato, quindi diciamo c'era veramente un controllo totale. Ma in altri stadi dove è stata trasmessa la cerimonia attraverso maxi schermi si sono verificati diversi scontri, in particolare nelle province del nord del Sudafrica, che sono le più povere. Presso lo stadio di Mombela addirittura risulta che ci siano stati appunto degli scontri tra cittadini sudafricani, per in qualche modo avere accesso alla, a dei contributi di cibo che sono stati dati da parte della, del militari sudafricani in omaggio di questo evento, in omaggio di Nelson Mandela, e questo è sicuramente un elemento molto molto significativo che fa capire come la popolazione sudafricana, legatissima naturalmente a Nelson Mandela, in questo momento però debba avere abbia altre priorità, esatto, quello di risolvere problemi come la disoccupazione e appunto anche problemi alimentari grossissimi. Grazie Lorenzo Simoncelli da Johannesburg, grazie Lorenzo. Parliamo invece della crisi economica che riguarda anche noi. Lo spread tra il BTP e il Bund tedesco archivia la seduta in calo, 222 punti base, ai minimi dal 7 luglio 2011. C'è un altro segnale importante: dopo due anni si è fermata la caduta del prodotto interno lordo. Timidi segnali di risveglio della nostra economia. Dopo due anni di caduta ininterrotta, il PIL nel terzo trimestre 2013 rimane invariato rispetto al trimestre precedente. Lo rileva l'Istat, secondo cui però la fine della recessione non può ancora essere dichiarata. Il PIL migliora anche su base annua, meno 1,8 contro meno 1,9 stimato. Va meglio anche la produzione industriale che a ottobre rimbalza dello 0,5 su settembre e il centro studi di Confindustria stima un recupero anche a novembre dello 0,4. Piccoli segnali che però ancora non si traducono in posti di lavoro. L'INPS rende noto che nei primi 10 mesi del 2013 le domande di disoccupazione sono aumentate di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2012. Il tasso di disoccupazione giovanile, dice l'OCSE, continua a salire. Anche lo stesso ministro dell'economia Saccomanni, se da una parte si dice ottimista e assicura che nel quarto trimestre l'andamento del PIL sarà positivo, dall'altra mette in guardia: è ingiusto sperare che ci saranno riflessi immediati sull'occupazione perché la situazione è molto grave. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo il commento sul dato del PIL del presidente di Confindustria Squinzi. Conferma quello che era anche la previsione del nostro centro studi, che la discesa sembrerebbe calare, cioè si sembra attenuarsi, però non siamo assolutamente, non possiamo dire che da questi dati che siamo fuori dalla crisi. Non possiamo dire che siamo. No, su base annuale siamo ancora sotto, avete visto. No? Una buona notizia riguarda l'Indesit, dove anche la FIOM CGIL firmerà l'accordo tra l'azienda e i sindacati per la ristrutturazione aziendale. Oggi i lavoratori hanno approvato l'intesa con 79,3% del sì. E da Indesit all'Italia ci sono anche qui delle buone notizie. Il piano industriale che è stato presentato in serata ai sindacati non prevede nessun licenziamento e risparmi per 128 milioni di euro sul costo del lavoro, lo ha detto l'amministratore delegato di Alitalia Gabriele Del Torchio ai sindacati. Si parla anche di evasione fiscale perché a Roma si è tenuto il convegno La legalità fiscale italiana, asimmetrie e convergenze con l'Europa, a cui ha partecipato anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. L'elusione e l'evasione fiscale, ha sottolineato, non sono compatibili con la nostra economia. L'ammontare delle tasse evase nel nostro paese viene stimato dalla Corte dei Conti in circa 130 miliardi, nonostante gli sforzi compiuti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza negli ultimi anni. Visto l'ordine di grandezza, il rafforzamento della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale è non solo una questione di entrate, ma anche di equità sociale. Infatti il fenomeno complessivo dell'economia sommersa ha ricadute pesantissime sul sistema economico e sociale del Paese. Queste ricadute si manifestano sia direttamente sul versante delle entrate erariali, oltre che falsando la normale e corretta concorrenza tra le imprese, sia indirettamente sul versante delle prestazioni sociali. Vedo adesso un'agenzia che è arrivata proprio in questi istanti. Parlavamo prima di Alitalia, del piano industriale. Adesso questa agenzia dice che il piano di Alitalia prevede esuberi per 1900 unità. Questo è stato spiegato ai sindacati nell'incontro con l'amministratore delegato Del Torchio, e il valore complessivo di riduzione di forza media retributiva. Siamo alla cronaca. Sono state fondamentali le rivelazioni di un collaboratore di giustizia affiliato al clan dei Casalesi per l'arresto da parte della DIA di Napoli oggi di due persone, tra cui il re delle ecomafie Cipriano Chianese. E poi nozze gay, dal 29 marzo ci potranno essere i matrimoni tra persone omosessuali anche in Inghilterra e Galles, a partire appunto dal 29 marzo 2014. La data è stata annunciata oggi dalla ministra della cultura Maria Muller. E c'è un lutto nel mondo del cinema. È morta oggi a Roma a 79 anni l'attrice Rossana Podestà. Aveva partecipato a molti film storici e mitologici fra gli anni 50 e 70. A metà degli anni 80 si era ritirata dalle scene per vivere col celebre alpinista Walter Bonatti, scomparso nel 2011. La Podestà aveva debuttato sul grande schermo appena sedicenne, quando era ancora una studentessa di liceo. Aveva lavorato con Risi, Monicelli, Zurlini. Barbara Boucher ha lavorato con lei nel film Il prete sposato, diretto dal primo marito dell'attrice Marco Vicario. Sentiamo il suo ricordo al microfono di Paolo Panceri. Rossana era una persona squisita, era una persona con i piedi per terra, una persona molto amichevole, non faceva la diva, insomma si lavorava bene come amiche insieme. Mi dispiace, una persona dolce, una persona amichevole. Io non guardo mai della professionale, sempre stata, però io se mi trovo bene con una persona sul lavoro e vedo che è una persona con quale si può parlare, condividere cose varie, è quella che è importante, l'essere umano, e lei lo era. E per chiudere, il calcio con una serata davvero decisiva in Champions League per la Juventus, non è vero Dario Ricci? È proprio così Roberta, ma ti dirò di più, Juventus e Galatasaray a Istanbul sono sullo 0-0, ma anche sotto un'abbondante, direi anche abbondantissima nevicata e grandinata, sembra di stare a St. Moritz o Madonna di Campiglio, scegli tu la non hanno le calzature che... giuste però, mi sembra. No, direi di sì perché era prevista, però certo... non così abbondante, il colpo di classe finora l'ha regalato l'arbitro Proenza, perché al 24esimo, vista la nevicata, ha interrotto un attimo la partita, ha cambiato il pallone, prima era bianco, adesso è rosso, però ecco ancora l'arbitro si sta consultando con i suoi collaboratori per vedere addirittura se non fosse il caso di prendere la gara. No, più che altro perché Roberta, le linee erano il pallone è rosso e questo va bene, ma le linee del campo, che erano totalmente bianche, ora sono indistinguibili. Quindi vuoi visto che la partita è decisiva, siamo sullo 0-0, basterebbe alla Juventus un pari, lo ricordiamo, per qualificarsi, ma almeno le aree di rigore dobbiamo riuscire a individuarle. Ecco, Proenza sta parlando con i capitani, adesso praticamente le aree di rigore non si vedono e dovrà in qualche modo trovare una soluzione. Qua secondo me facciamo le ore piccole, perché se si rimettono a ridisegnare ridipingere tutto il campo, facci sapere insomma. Sì, tanto comunque intanto siamo sullo 0-0 per quanto riguarda il match. Finora la migliore occasione, turchi chiaramente in pressing perché devono vincere per forza, ma la migliore occasione è capitata ai bianconeri con Llorente, una girata di destro al 16esimo, occasione però al lato di pochissimo. Grazie Dario Ricci, a tra pochissimo. Noi dobbiamo aggiornare subito chi viaggia e poi per i vostri commenti, se vi sentite rappresentati dai manifestanti che protestano, questi cosiddetti forconi, 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Torneremo a parlare di Partito Democratico e di Renzi tra poco, ma vi ricordo i fatti principali di oggi. La manifestazione dei forconi, continuano i blocchi e i presidi, marcia su Roma la prossima settimana e Berlusconi dice il governo li convochi subito. La commemorazione di Nelson Mandela a Johannesburg, lungo addio con oltre 100 leader mondiali e la stretta di mano tra Obama e Castro. Partito Democratico, la prima scossa di Renzi, segreteria riunita alle 7.30, annuncia, parla D'Alema e conferma io sono fuori dalla politica. E per quanto riguarda il calcio avete sentito Juventus e l'ora della verità in Turchia, in ballo ottavi e un pezzo di futuro per ora 0-0. Guerini. Buonasera. Portavoce della segreteria nazionale del PD. La sente questa sveglia? Sì, la sento. La sento anche domani mattina. Lei è pronto domani mattina? A che ora per essere lì, riuniti in segreteria del PD, essere lì alle 7, a che ora si deve svegliare lei? Ah, io alle 6:15 perché sono un po' lento, doccia, barba, aspetto un po'. Senta, ma al di là che... Però non è un problema, insomma. Renzi rappresenti la novità, rappresenti la grinta, rappresenti il brio, la prontezza, la voglia di fare. Non le sembra un po' presto? Domani c'è anche la coincidenza del dibattito alla Camera sulla fiducia al governo Letta, la relazione del Presidente del Consiglio alle 9, quindi insomma credo che sia anche un atto di attenzione nei confronti di questo passaggio parlamentare, quindi ci si riunisce prima, è una riunione operativa in cui per la prima volta la segreteria si trova insieme, si ragionerà un po' sul metodo di lavoro, insomma, credo che... Quindi una tantum, perché io avevo capito che d'ora in poi sempre... No, poi penso che si troverà presto, poi non so se sarà sempre alle 7.30, alle 7 o alle 8. Un po' come in caserma, insomma, ho capito. Un po' come in caserma, però va bene, insomma, la mattina almeno non siamo distratti dai telefonini, non siamo distratti da altri disturbi, possiamo lavorare... positivamente, insomma, efficacemente. Lorenzo Guerini, lei è tifoso di qualche squadra, si può dire? Sì, del Milan. Del Milan. Ah, adesso invece c'è la Juventus. Sentiamo un attimo Dario Ricci, che ci dice che forse è stata sospesa la partita della Juventus. Sì, Dario? Sì, anzi, per fortuna l'onorevole Guerini non è tifoso della Juventus, proprio perché stasera farà sicuramente tardi, perché match di Istanbul sospeso e, come avevamo anticipato, Roberta, sono entrati in campo gli spalatori che stanno spazzando le linee dell'area di rigore. E a volte succede. Il problema è che continua a grandinare e comunque a nevischiare, quindi se non hanno una soluzione strutturale, cioè riuscire a farle un po' di un altro colore... O a mettere un tetto sopra il campo, mi sa che quindi si va per le lunghe. La tribuna c'è, ma copre praticamente solo i due portieri, che sono abbastanza al riparo. Intanto, infatti, adesso è molto bello vedere, ecco, stanno armando l'aggeggio per ridisegnarle in bianco, e secondo me, se continua a nevicare, fra poco non serve a niente. Va bene, grazie Dario Ricci. Grazie. È un po' come la politica italiana, si continua a provare a rimettere insieme il campo di gioco, ma non si riesce mai a farlo in maniera definitiva. Bravo Lorenzo Guerini. Allora forse c'è Renzi a Ballarò, sentiamo un attimo. Ho messo Ivano Fossati la Mannoia. Ma Renzi è così, è un'icona pop. È un mix tra Striscia la Notizia e X Factor. Il suo sogno non è diventare come Obama, ma come Mika. Buonasera, sindaco Renzi. Come cambierà adesso il PD? Intanto, sì. Signori miei, sì. Io, guardate, sì. Lo devo dire, vorrei scrollarmi di dosso. Cosa? Questo senso. Sì? Di cosa? Di PD. Ma come di PD? Se lo vuole scrollare questo senso di PD di dosso. No, se lo vuole scrollare, anzi, sta tenendo la riunione con i gruppi parlamentari in questo momento. Vanno d'accordo? C'è unità? Sì, c'è unità, c'è stato un grande applauso con cui Renzi è stato accolto, c'è stato anche un applauso che è stato riservato a Epifani per il lavoro che ha svolto in questi mesi di avvicinamento al congresso. Adesso si sta parlando delle cose da fare, del lavoro che si intende svolgere insieme, insomma, mi pare che ci sia una buona partenza, una partenza che è necessitata per noi anche dal grande risultato delle primarie della scorsa domenica, perché 3 milioni di cittadini che si sono recati sono effettivamente tanti. Sono effettivamente tanti e sono una bella responsabilità, oltre che una bella iniezione di fiducia. È proprio questo Guerini, quindi un grande successo. Infatti anche ieri Epifani diceva, in un momento di antipolitica, veramente un ottimo risultato. Però appunto la responsabilità, si rende conto Renzi, secondo lei che è il portavoce, si rende conto delle responsabilità enorme, delle aspettative stratosferiche che hanno le persone che l'hanno votato e anche quelli che non l'hanno votato probabilmente? Certamente sì, perché non manca l'occasione di dirci sempre che questa responsabilità è una responsabilità che ci viene consegnata insieme alla fiducia, forse per l'ultima volta. A questo passaggio io credo i cittadini italiani abbiano dedicato tante speranze e tante attese, e non possiamo permetterci di deluderle. Dobbiamo dare risposte ai problemi del Paese e dobbiamo farlo anche in tempi brevi. Non possiamo immaginare le liturgie e i tempi lunghi della politica per affrontare l'emergenza dell'Italia. Lei è, immagino, ben contento di far parte di questa squadra? Me è certamente un grande onore, perché insomma sono in Parlamento da pochi mesi, dopo aver fatto per 10 anni il sindaco della mia città, che è Lodi. Di Lodi, no? Lodi, Lombardia. Sì, quindi insomma conosco Renzi da alcuni anni, prima come collega sindaco e poi anche per l'avventura che insieme abbiamo portato avanti lo scorso anno con le primarie. Adesso insomma, mi è stata chiesta questa disponibilità, per me è un grande onore, spero di esserne all'altezza. Sono contento, ma nel contempo anche, come dire, consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. Spero che insieme potremo essere in grado di affrontarle e di risolverle. Renzi voleva anche dare un po' l'onore delle armi a Cooperlo, o comunque era il voler dimostrare di voler tenere tutto insieme, tutti insieme, anche se facendo fuori la classe dirigente, quella insomma un po' attempata in senso cronologico, anche i D'Alema e i vari altri, no? Adesso non so, Veltroni aveva anche un buon rapporto, però Cooperlo non si capisce se lui stesso o D'Alema dietro le sue spalle ha rifiutato, anche se c'è sempre questo pressing, continuano. Ma, insomma, io non sono un appassionato di dietrologismi, credo che insomma noi oggi abbiamo, ieri abbiamo Renzi nominato la segreteria, abbiamo un passaggio la prossima domenica quando si riunirà l'Assemblea Nazionale in cui dovremo compiere altri adempimenti, tra cui anche l'elezione del Presidente del Partito Democratico. Io mi auguro che venga raccolta la proposta che Renzi ha fatto, quella cioè che ha indirizzato a Cooperlo e alla mozione che ha sostenuto Cooperlo di essere in campo insieme a noi per governare questo partito. Certo, nel rispetto delle indicazioni che i cittadini hanno dato in maniera così chiara la scorsa domenica, ma in una, come dire, prospettiva di unità. Io mi auguro che questo appello venga raccolto. Penso che la stima tra Cooperlo e Renzi sia una stima molto alta, anche questa sera insomma Renzi ha tributato un omaggio a Cooperlo, anche a Civati, a Pittella, per il lavoro e le modalità con cui hanno affrontato il percorso congressuale. Però insomma io penso che il Partito Democratico abbia la possibilità di fare un percorso insieme, certo ciascuno con i ruoli che gli sono stati assegnati dai cittadini che sono andati a votare, ma questa richiesta, come dire, di un lavoro insieme, leale, è una richiesta che ci viene fatta dalla nostra base, dai nostri elettori, anche questo non vada tradito, io credo. Vedo, proprio perché Renzi diceva ieri non voglio perdere neanche un minuto, c'è un'agenzia di pochi istanti fa dove Renzi dice sulla riforma della legge elettorale partiamo dalla maggioranza ma poi dobbiamo allargare anche all'opposizione, dobbiamo portarla a casa entro il 25 maggio. Adesso me lo segno, questa data ce la segniamo. Questa è la data, ne abbiamo parlato anche ieri sera. Sì, l'obiettivo è quello, insomma è venuto il momento di passare dalle parole, cioè tutti concordiamo sul fatto che l'attuale legge elettorale non vada bene, tutti concordiamo sul fatto che la sentenza della Corte Costituzionale ci impone di superare ciò che resta del porcellum, tutti vogliamo una legge elettorale che garantisca governabilità al Paese, bene, è il momento di passare dalle parole ai fatti, non possiamo legare la tematica della legge elettorale al perimetro semplice dell'alleanza di governo, da lì si parte, ma parlando di regole del gioco, le regole del gioco devono essere tutte condivise, insomma questo vorrebbe un sistema democratico. Non so se lei l'ha certo, visto. Non con potere di interdizione da parte di nessuno. Staremo a vedere questo, se riuscirà, a schivare. Questa è l'ambizione e l'obiettivo, ma penso che sia anche l'esigenza del Paese sotto il profilo delle regole che governano la politica e la rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni. Ci sono altre cose insieme a queste che... No, ma Guerini, le volevo dire una cosa. Lei, prego. Non so se lo sa, Tony Blair ha citato in serata poco fa Matteo Renzi, ha detto rappresenta, quindi l'ex premier britannico ha detto Matteo Renzi rappresenta uno spirito di ottimismo e speranza per l'Italia e l'Europa. Beh, mi pare un grande tributo, un grande omaggio che... Io penso una figura importante della sinistra europea, riformista europea, ha ritenuto di dare a Renzi. Io penso che davvero la carica di speranza insieme alla carica di innovazione e di coraggio che Renzi porta con questo avvio di segreteria possa essere importante per l'Italia, ma non solo per l'Italia. Per chiudere, Lorenzo Guerini, tra le priorità Renzi ieri subito ha annunciato appunto la riforma della legge elettorale, un piano per il lavoro, cos'è la cosa più di sinistra che farà Renzi? Ma io penso innanzitutto alla tematica del lavoro, oggi anche le manifestazioni di oggi, insomma, al di là delle strumentalizzazioni veramente pesanti che sono state compiute, le parole veramente pericolose che sono state pronunciate, però dentro la protesta di oggi, tolte le strumentalizzazioni, c'è tanto disagio sociale che è presente nel nostro paese per la crisi economica e occupazionale che è anche crisi sociale. Ecco, essere di sinistra in questo caso significa intervenire su queste aree di sofferenza cercando di dare a questi problemi risposte immediate, con la consapevolezza che non si possono fare miracoli, ma che c'è una, come dire, una partita che non possiamo permetterci di non giocare, perché è la partita che riguarda la coesione delle nostre comunità e delle nostre famiglie. Lorenzo Guerini, io a questo punto la lascio perché so che domani si deve svegliare prestissimo, no, come stavamo dicendo. Finisco la riunione dei conti pubblici parlamentari intanto. Va bene. Grazie Guerini, buon lavoro. A lei, buonasera a lei, ascoltatore. E ci saluti Renzi. Bene, la sveglia è sempre un'angoscia, ma così c'è anche un po' più simpatica. E direi che però è il momento anche per noi di fermarci, perché c'è la pubblicità e poi ritorniamo e parliamo di Forconi con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure alla pagina Facebook Effetto Notte - Roberta Giordano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E prima di passare al prossimo ospite, al prossimo argomento, vi ricordo i fatti principali di oggi. A partire dalla manifestazione dei cosiddetti forconi che continuano con i blocchi, presidi, marcia su Roma la prossima settimana, e Berlusconi dice il governo li convochi subito. La commemorazione per Nelson Mandela, lungo addio con oltre 100 leader mondiali e la stretta di mano tra Obama e Castro. Partito Democratico, la prima scossa di Renzi, segreteria riunita, come avete visto alle 7.30, l'abbiamo sentito prima, parla D'Alema e conferma io sono fuori dalla politica. Crisi, l'allarme di Save the Children, 1 milione di bambini poveri in Italia, il boom al nord. Calcio, la Juventus, è l'ora della verità in Turchia, in ballo ci sono gli ottavi, un pezzo di futuro, ma abbiamo visto che poco fa è stata sospesa per neve e grandine. E quindi Dario Di Vico può parlare tranquillamente con noi perché per un po' questa partita dovrebbe essere sospesa, vero Dario Di Vico? Sì, forse non solo per un po'. Potrebbe andare, magari probabilmente si rimanda, adesso vediamo se riescono a ricostruire, ridipingere le strisce di delimitazione del campo oppure no. Dario è un grande tifoso della Juventus e quindi poteva essere a rischio la sua presenza questa sera. Invece, ecco qua Dario Di Vico del Corriere della Sera, al quale vorrei chiedere di aiutarci a capire il cosiddetto movimento dei Forconi, perché ieri invece avevo uno dei rappresentanti del movimento dei Forconi per il Veneto che si era molto indignato per questa definizione, solo che continua a esserci tra noi giornalisti, tra gli osservatori eccetera, forse per una questione di sintesi, per poter dare insomma un qualche nome. Loro non se lo sono dato anche perché sono veramente tante categorie, tanti gruppi un po' misti con obiettivi un po' generali. Certo si capisce che c'è un grande disagio diffuso, questo sì, un grande malcontento, una certa rabbia sociale, Dario? Beh, prima c'è un ragionamento, è chiaro che la moneta cattiva scaccia la buona, il termine Forconi si presenta così un po' aggressivo, come dire, dice. Così aggressivo che certo prevale su Trasporto Unito e altre formule così. Poi è vero, ci mettiamo noi giornalisti che abbiamo sempre bisogno di sintesi e quindi è diventato tutto Forconi. Io dico che appunto Forconi è una specie di è diventato un franchising, perché in realtà la protesta ha unito segmenti molto diversi tra loro. Ieri mi colpiva per esempio che i commercianti di Brindisi hanno solidarizzato con la protesta, mentre i commercianti di Torino hanno protestato contro il fatto che li avevano costretti a tenere le serrande abbassate. A Torino c'erano gli ambulanti, gli ultras della Juve e del Toro. In altre situazioni Bologna la protesta è diventata una protesta contro Equitalia, quindi insomma è una Forconi, evidentemente è una sintesi sbagliata, non solo da un punto di vista, come dire, lessicale, ma perché mette insieme cose molto diverse. I Forconi, ricordiamo, invece erano siciliani, agricoltori siciliani, no? Sì, dalla Sicilia, e Forconi era intriso anche di una forte carica aggressiva, distruttiva nei confronti della politica, no? Invece molto spesso gli altri segmenti hanno altri obiettivi, appunto facciamo conto Equitalia in alcuni casi gli ambulanti, nell'altro caso gli ambulanti di Torino ce l'hanno con il comune, gli ultras ce l'hanno con il mondo e via, insomma, quindi la cosa appunto è molto complicata e infatti in realtà le parole d'ordine da cui si parte, perché si parte tutti da un fermo dell'autotrasporto, perché è importante ricordare questo, tutte le sigle dell'autotrasporto, compresa la Confindustria, cioè Anita, avevano indetto un fermo dal 9 al 13. Poi le sigle più importanti, comprese quelle che fanno capo anche a Rete Imprese Italia, per capirci, per semplificare, hanno firmato un accordo con il governo che è stato giudicato positivo. Questo accordo non è stato firmato da una piccola associazione che si chiama Trasporto Unito e da frange variamente collocate. Da qui praticamente il 9-13, che era stato convocato da soggetti, diciamo, molto rappresentativi, è diventato questo happening che vediamo in questi giorni. Tra poco c'è anche in collegamento, tra poco lo sentiamo, un autotrasportatore, però intanto volevo vedere tra i tantissimi messaggi che stanno arrivando, che scorrono, quindi faccio fatica a leggerli perché vanno veloci. Luca da Milano scrive: i forconi come gli antagonisti non rappresentano nessuno se non la violenza, sono la solita italietta di ladri evasori che cercano da altri delle soluzioni. Un attimo che continuano a scorrere e non riesco a leggere, che trovano un'altra soluzione dei loro problemi, ora di crescere sono loro che se ne devono andare da questo paese. Poi il movimento dei forconi, dice, sono tutti, un altro ascoltatore, padroncini e fascistoidi, questa è l'alba dorata italiota e parano alla pancia dei veri affamati per abbandonarli per abbindolarli col populismo di bassa lega. E poi invece altri dicono meglio loro che i politici italiani. Riccardo invece scrive: non offrono alternative costruttive, disinteresse totale delle leggi e normative, che si nascondono dietro a leader di movimenti per celare l'incoerenza del loro poco senso civile. Riccardo anche non si sente rappresentato. Michele invece dice assolutamente sì. Mario scrive: questi non rappresentano proprio nessuno, insomma c'è chi si sente rappresentato e chi no, e chi dice insomma prima o poi, leggo un altro messaggio, mi sentirò rappresentato, a proposito di questo disagio sociale molto diffuso. No, certo, però io voglio dire, se noi rimaniamo nel campo dell'autotrasporto, è comunque una categoria di persone con un lavoro durissimo, in condizioni molto difficili, a fronte di legalità molto presenti e di una concorrenza che viene dall'est soprattutto, no? Dall'est, da ditte che addirittura si delocalizzano, ditte italiane che si delocalizzano all'estero per poter evadere i contributi dei camionisti. Dario, ma ne abbiamo proprio uno in collegamento, che è Salvatore Bella. Buonasera. Buonasera. Presidente di AITRAS, Associazione Italiana Trasportatori. È vero che domani tra l'altro incontrate Berlusconi, che ha detto che si è reso disponibile per incontrarvi? Sì, è vero. E quando lo incontrerete che cosa gli chiederete? Ma non lo so, ha chiesto di incontrarci, illustreremo, diciamo, quali sono le nostre problematiche e il perché noi ci siamo uniti ai forconi. Noi ci siamo uniti ai forconi perché qui in Sicilia i forconi sono gli agricoltori e quindi sono i nostri committenti. La Sicilia non è come il nord dell'Italia che ci sono le fabbriche. In Sicilia l'80% è solo di formata di agricoltori che producono ortofrutta e che noi carichiamo e esportiamo nel nord dell'Italia e del centro Europa. Quindi i nostri committenti sono i forconi. Quindi il vostro obiettivo di questa protesta, voi come autotrasportatori, qual è il vero obiettivo? È quella di cacciare la casta delle associazioni, dove fa capo Paolo Gè, un lobbista che ha rovinato l'autotrasporto italiano e che praticamente ci ha distrutto. Adesso io non lo conosco, quindi non so, magari non nominiamo chi non c'è, anche perché io non lo conosco e non potrei dire esattamente che cosa fa, non ho idea se appartiene alla vostra categoria. Però voi, insomma, come diceva Dario Di Vico del Corriere della Sera, cercate di contrastare la concorrenza, secondo voi, sleale? No, guardi, noi cerchiamo di contrastare, di mandare a casa questa gente, le sigle tradizionali che hanno rappresentato per 30 anni l'autotrasporto e lo hanno distrutto. Noi siciliani, per dire, non siamo più nelle condizioni di poter esercitare gli autotrasportatori, perché deve sapere che noi siciliani, partendo dalla Sicilia per andare nel nord dell'Italia, rischiamo ogni viaggio di farci sequestrare il mezzo e la merce, perché gli addetti del settore sanno che un autotrasportatore non può fare più di 9 ore di guida giornaliere. Anche se mettiamo 2 autisti sopra un camion, noi non riusciamo ad arrivare neanche all'altezza di Firenze e poi ci dobbiamo fermare. Siccome trasportiamo prodotti deperibili, possiamo andare a buttare pure al macero anche i prodotti e quindi di conseguenza abbiamo distrutto anche un'economia nell'isola. Salvatore Bella, ma rispetto ai presidi, diciamo, ai blocchi, anche a qualche tafferuglio, a momenti di guerriglia, voi come vi distanziate? preoccupate da questi metodi? Guardi, noi prendiamo, diciamo, le distanze per ogni qualsiasi forma di violenza. Addirittura in Sicilia è successa una cosa ci porta, diciamo, in una dittatura, ci porta indietro negli anni, e noi qui non siamo più messi nelle condizioni di poter scioperare. Addirittura i prefetti ci hanno vietato di portare i camion nei presidi, nonostante noi abbiamo ottenuto dalla commissione di garanzia di scioperare, abbiamo eseguito, diciamo, tutte le norme che si eseguono per legalità, Salvatore Bella, chiaro. Dario Di Vico, hai visto, quindi insomma ci sono sempre gli autotrasportatori come categoria, diciamo, molto rappresentata di questi movimenti, di questo movimento di protesta. Da una parte c'è qualcuno che dice bisogna accogliere, capire le loro istanze, ascoltiamo le altri. Vabbè, Alfano ha detto una cosa anche naturalmente giusta: quando ci sono delle minacce, ha detto non consentiamo che le città vengano messe a fuoco, che siano minacciati i commercianti, no? No, ma io stavo dicendo che al di là delle contese che ci sono tra le associazioni, che sono, come dire, fisiologiche nel campo della rappresentanza, io mi soffermavo più sul lavoro dell'autotrasportatore come tale. Dico che a prescindere dalla valutazione che si vuol dare, a prescindere dal fatto che con i forconi in Sicilia sia un'alleanza naturale, e mentre al nord sia innaturale, che è un po' la tesi che ho sentito dire, io dico che comunque la condizione dell'autotrasportatore è una condizione difficile, ma che va rispettata come condizione di lavoro. Ecco, poi discutiamo, ripeto, le singole azioni, le alleanze, le varie associazioni e così via, però è un lavoro durissimo in condizioni proibitive e anche, come dire, sempre in una condizione, se non di rischio, certo. Vediamo quindi, Dario Di Vico, nei prossimi giorni se si riusciranno ad arrivare delle mediazioni. Intanto grazie a te, Dario, poi magari ci si risente nei prossimi giorni. Anche a Salvatore Bella, buona continuazione, e spero per l'appunto che ci possano essere dei risultati, insomma. Grazie e buon lavoro intanto, buona continuazione. Grazie. Adesso aggiorniamo proprio chi sta viaggiando, compresi ovviamente gli autotrasportatori. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso c'è Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Roberta, buonasera. Caporedattore di Radio 24. Gigi, su oggi hai seguito anche tu la grande commemorazione per ricordare Nelson Mandela, con oltre 100 capi di Stato a Johannesburg. Ci sono stati anche dei fischi, abbiamo sentito prima dal corrispondente Simoncelli, però tutto ci stava, insomma, in questo scenario così, così grande, così ampio, commosso da una parte, con tante istanze dall'altra. Però è stato il momento di un grosso passaggio, che ha segnato un passaggio, no? Considerando anche l'età di Mandela, che è morto a 95 anni, quindi l'età, il periodo in cui lui è nato e come si prospetta oggi invece gli scenari mondiali, la geopolitica. Beh, sicuramente Mandela dalla sua ha questo secolo di vita, 95 anni ovviamente, ma insomma poco ci manca. È sempre impressionante pensare che Nelson Mandela sia nato quando in Europa ancora si combatteva gli ultimi mesi del primo conflitto mondiale. Certo, quello che oggi colpisce, tra le altre cose, è i ruoli, insomma, la coreografia di questo grande evento di Johannesburg, che racconta naturalmente il Sudafrica in primo luogo, ma racconta anche che su 6 discorsi ufficiali, insomma quelli che hanno affiancato Zuma, 3 sono stati affidati e naturalmente riconosciuti di fatto a esponenti di quelli che una volta erano i cosiddetti paesi in via di sviluppo e non allineati, insomma la Cina, l'India e il Brasile, questi accanto naturalmente al presidente degli Stati Uniti Barack Obama, a Castro, che peraltro Castro fratello, Raul, che significa, certo, che significa anche però nella storia africana tutta la storia della guerra di liberazione, l'Angola, insomma gli anni 70 e 80 proprio di guerra. Ecco, questo per dire che oggi devo dire mi ha colpito molto questa liturgia che racconta di fatto l'emersione, l'esplosione dei cosiddetti BRIC, no? I paesi, appunto, Brasile, Russia, no? Brasile, Russia, India, Cina, a cui dal 2010 si è aggiunta la S del Sudafrica. il Sudafrica viene aggiunto o tolto dall'elenco un po' così con un certo piacimento, perché diciamo non ha una posizione, uno spessore delle spalle larghe come gli altri, però è sicuramente l'economia di riferimento in Africa e soprattutto anche un ruolo diplomatico formidabile. Ecco, oggi vedere le delegazioni così importanti dei brasiliani, degli indiani, davvero, e dei cinesi, che non dimentichiamolo, sono diventati nel corso degli ultimi 13 anni i primi partner commerciali del Sudafrica. Una curiosità: nel 1990 lo scambio tra Sudafrica e Cina era di 14 milioni di dollari, nel 2012 è arrivato a 29 miliardi di dollari. Mamma mia, su questo risultato, Gigi Donelli, ci dobbiamo salutare, e ti ringrazio anche di aver messo in evidenza appunto questi scenari così cambiati, come la storia alla fine corre velocemente e ribalta anche a volte le posizioni. Noi ci lasciamo adesso, poi ci risentiamo tra poco anche con una notizia che riguarda la Juventus.